9 in punto. Buona giornata, care ascoltatrici e cari ascoltatori. È la notte tra il 28 e il 29 maggio. Una cinquantina di uomini, agenti della polizia, cinquantina almeno a quel che sappiamo, circondano una villa di Casal Palocco a Roma. Viene prelevata una donna, separata dalla figlia di 6 anni, e portata in un centro di identificazione ed espulsione. Poche ore dopo viene rimandata con la figlia nel suo paese. Direte, è un caso ordinario di immigrazione clandestina? No, perché la signora si chiama Alma Shalabayeva ed è la moglie di Mukhtar Ablyazov, esule dal Kazakistan dal 2009. Il Kazakistan, è bene che lo sappiate, tende ad essere negli ultimi posti in classifica, appunto nelle liste stilate su chi protegge diritti umani e civili. Ablyazov è un oligarca, è bene che sappiate anche che è accusato in patria di truffa, è considerato un criminale, è anche però il maggior oppositore del presidente kazako Nazarbayev. È ricercato dalle autorità, ma è ricercato lui, lo ricordiamo, non la moglie, di certo non la figlia di 6 anni. Una questione che è anche politica a questo punto. Perché? Perché il ministro Bonino non ha parlato ufficialmente, il ministro degli esteri, ma ha fatto filtrare che non ne sapeva nulla. Da quel che si è capito è parecchio arrabbiata. Avrebbe parlato di figura miserabile fatta dal nostro paese. Apprendiamo dai giornali, dai soliti retroscena, che sarebbe arrabbiata anche il ministro Anna Maria Cancellieri. Le responsabilità ricadrebbero naturalmente, perché su questa storia, ricordiamocelo, non ci sono grandi certezze al momento, sul ministro dell'interno Angelino Alfano. La cosa dalla quale vogliamo iniziare, vi ricordo naturalmente il numero di telefono per intervenire in diretta, che è l'800 24 0024, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/9inpuntoradio24, oppure mi trovate su Twitter, Simone Spezia, se volete scrivermi, sono qua. Iniziamo dalla storia in se stessa, dalla storia di quella notte, di quelle ore che sono seguite. Riccardo Olivo, difensore dei familiari di Ablyazov, buongiorno. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, sono l'avvocato Olivo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno, eccoci qua, avvocato. Allora, Che cosa è successo in quelle ore? Allora, in parte la storia, insomma, l'abbiamo raccontata, per quanto sommariamente. Io vorrei capire poi, dal punto di vista procedurale, che cosa è successo. Perché, insomma, nel momento nel quale una persona viene presa, accusata di essere presente illegalmente sul nostro paese, si deve passare per dei giudici, naturalmente, e quindi naturalmente per degli avvocati. Che cosa è successo? Noi non abbiamo delle assolute certezze, vorrei premettere, perché non abbiamo avuto ancora l'accesso alla documentazione ufficiale, cioè siamo riusciti ad avere parecchi documenti per la verità, ma soltanto facendo una richiesta di riesame al Tribunale di Roma relativamente a dei sequestri che nell'occasione dell'intervento della polizia erano stati effettuati. In sostanza quello che noi sappiamo, ma badi che lo abbiamo saputo praticamente un giorno sano dopo che il primo intervento, quello che lei ha descritto tra la notte del 28 e la mattina, a mezzanotte sostanzialmente del 29, si era verificato come primo intervento, quello in forze che lei ha descritto. Quindi siete stati chiamati 24 ore dopo sostanzialmente? No, noi siamo stati chiamati diverse ore dopo, sì. In pratica da un avvocato della famiglia, diciamo, perché questa disgraziata famiglia di persone che da quando, come lei diceva, hanno subito questa persecuzione nell'ambito del loro paese, girano un po' l'Europa, e la signora Shalabayeva ha una figlia più grande di 25 anni che vive in Svizzera e che quindi una volta che ha appreso che c'era stato questo intervento così forte, così violento nell'ambito della villetta dove abitava la madre e la figlia più piccola, questa bambina di 6 anni, si è messa in contatto con degli avvocati dove lei risiede in Svizzera. I quali avvocati l'hanno contattata. Avvocato, mi spieghi? Si fermi un attimo. Allora, rimaniamo su quella notte. Rimaniamo su quella notte perché lei ha naturalmente parlato anche con i familiari, tramite interprete naturalmente, con i familiari di queste persone, perché queste due persone non erano sole all'interno della villetta. Chi c'era con loro? C'era la sorella di questa signora Shalabayeva con il marito, tutte e due di nazionalità kazaki, e con una bambina anche loro in casa di 9 anni, che erano in visita sostanzialmente alla sorella e a questa nipotina di 6 anni. E c'erano anche due persone di servizio di nazionalità ucraina, che viveva da vicino lì. Da quel che vi risulta, il cognato è stato anche picchiato in questo blitz? C'è stato questo episodio che è stato documentato. Una colluttazione, diciamo, non sappiamo se è stato picchiato, c'è stata una colluttazione, diciamo così, va bene. Allora, a quel punto la signora viene presa, separata dalla figlia, che immagino venga lasciata in casa a quel punto, e portata nel centro di identificazione ed espulsione. Beh, per la verità non subito, cioè in sostanza da quello che abbiamo ricostruito ex post, le dicevo, in base a una documentazione che è tuttora incompleta, perché noi abbiamo chiesto l'accesso agli atti sia alla prefettura che alla questura, e ancora questi atti ormai a più di un mese di distanza dal fatto non ci sono stati dati. E sono tempi normali questi, diciamo, da lentezza della giustizia, o sono tempi giusti? Ma guardi, questo sono tempi sbagliati. Non riguarda la giustizia se non in minima parte. È stato tutto gestito, io credo francamente, in modo deliberato in ambito amministrativo, cioè chi ha ordinato l'espulsione è stato un viceprefetto, e quindi in ambito appunto strettamente amministrativo, chi poi l'ha eseguita, e l'ha eseguita con tempi veramente, dire rapidi e dire poco, insomma, con tempi fulminei, è stata la questura, o meglio io ritengo l'organo preposto alla della questura di Roma a queste vicende, che è l'ufficio immigrazione, quindi io immagino che siano stati costoro a determinare poi un'espulsione veramente fulminea su un jet privato, come probabilmente molti ascoltatori sapranno, perché la notizia ha cominciato a circolare sugli organi di informazione. Oggi c'è una nuova ricostruzione piuttosto precisa un jet privato affittato, cioè preso in affitto dall'ambasciata del Kazakistan. Esatto. Ok, che è, tra l'altro, adesso rimaniamo un attimo sulla storia. Allora, la signora viene portata nel centro di identificazione ed espulsione. No, le stavo dicendo perso. In realtà questo è avvenuto un giorno dopo, cioè è stata praticamente quasi 24 ore la signora a girare tra gli uffici centrali della Questura di Roma e l'ufficio immigrazione, sempre della Questura di Roma, ma che ha un'altra sede rispetto alla Questura centrale di Roma. E quindi per molto tempo è stata trattenuta lì senza che nulla fosse trapelato all'esterno, cioè che nessuno sapesse addirittura dove la signora si trovava. Dopodiché appunto viene portata nel CIE. Là, a quel punto, che cosa avviene? Che cosa c'è? Un'udienza? Che tipo di procedura c'è in questi casi? Viene portata, da quello che ci risulta, al CIE praticamente la sera, tardi del giorno dopo il blitz, cioè del mercoledì, e alle 10 di sera le viene notificato un decreto di espulsione, che è stato quindi richiesto, perché è la questura che lo richiede, e ottenuto dal prefetto in tempi veramente brucianti, e la notte le viene notificato questo decreto. E la signora resta poi un altro giorno, il giorno di giovedì, presso il centro, praticamente anche lì senza avere nessuna assistenza. Noi riusciamo a capire finalmente dove si trova e mandiamo un nostro collega dello studio ad avere un colloquio faticosissimo con lei in lingua russa, in assenza totale di interpreti ufficiali del centro che non sono mai stati messi a disposizione, senza avere a disposizione la documentazione in base alla quale la signora era trattenuta ed era stata ordinata la sua espulsione, in attesa che la mattina dopo, siamo arrivati finalmente al venerdì, sì, ci sarebbe stata l'udienza di convalida del trattenimento. Sì. Cioè è un'udienza che si fa praticamente per vedere se era corretto trattenere questa persona in un centro di identificazione ed espulsione, praticamente un fermo. Ecco. Okay. Ecco. E mentre invece in quel caso che cosa succede? Succede che in realtà viene espulsa in quel momento, finita l'udienza di convalida del trattenimento nel CIE. Esattamente, cioè la cosa veramente credo che non ha uguali, insomma adesso poi si potrà vedere se ci sono precedenti analoghi, è che l'udienza di convalida finisce alle 11:30 insomma della mattinata E però abbiamo perso l'avvocato Olivo, adesso lo recuperiamo. Saluto intanto Emanuele Fiano, deputato del Partito Democratico, componente della Commissione Affari Costituzionali e della Presidenza del Consiglio degli Interni. Buongiorno. Lei buongiorno. Su questa vicenda ha presentato un'interrogazione. Sì, mi sembrava il minimo. Le cose che abbiamo letto sulla stampa e anche quelle che raccontava adesso l'avvocato, io tra l'altro mi scuso, dovrò lasciarvi prima della conclusione della vostra trasmissione, ma direi che intanto siamo di fronte, prima di tutto l'interrogazione l'ho mossa perché mi è parso che non ne fossero veri i presupposti per cui si possa procedere, seppur con modalità del tutto inusuali, all'espulsione di una persona, perché intanto l'avvocato, se non vado errato, così riscontro dagli organi di stampa, ha portato una dichiarazione giurata dell'ambasciatore dello Stato a cui faceva riferimento il passaporto della signora, perché gli estremi con cui le forze dell'ordine hanno potuto contestare alla signora la sua presupposta condizione di clandestinità e quindi il fatto di ricadere all'interno di un reato, oggi considerato reato penale, erano probabilmente falsi, nel senso che il passaporto della signora era assolutamente vero, a parte poi... Sì, fanno filtrare dal Ministero dell'Interno, dicono in sostanza che la donna aveva in mano un passaporto diplomatico che secondo quanto risulta al Ministero e quindi alla Questura di Roma risulta falso, quindi lei era soggiornante irregolarmente sul territorio italiano, passaporto che aveva segni di contraffazione e mancava di un visto, di un timbro che attestasse l'ingresso nell'area Schengen, questo dicono dal Ministero dell'Interno. Prego Fiano. Però noi, credo né lei né io, abbiamo memoria di un'espulsione così rapida di un clandestino in Italia. Cioè, ricordo che noi riusciamo a malapena, dopo qualche mese o settimana, ad espellere persone la cui oggettiva condizione di fronte alla nostra legge è ben più grave. Comunque, fatto sì è che i particolari con cui è avvenuto tutto quello che è avvenuto, il fatto che l'avvocato che ho appena ascoltato, ma comunque di cui avevo letto le opinioni o i riscontri, avesse avuto dal giudice di pace l'assicurazione di una seconda udienza nel pomeriggio e che la signora e la figlia minorenne, vorrei anche ricordare questo particolare, che vorrei anche sapere come è stata prelevata dalla casa nella quale era stata affidata la zia, comunque sia stata, non abbia potuto partecipare a questa seconda udienza perché è stata espulsa prima, la vicenda del passaporto, che non so, qui bisognerà richiedere all'avvocato che voi avete in linea, perché l'avvocato sostiene che il passaporto era vero, quindi poi dopo ci sarà, immagino, un confronto con quanto asseriscono le forze dell'ordine, delle quali non ho motivo di credere che dicano cose inesatte, però certo è un particolare non indifferente. Insomma, tutto l'insieme delle questioni, oltre al fatto che, come lei ha giustamente detto all'inizio della trasmissione, quello che ci consta, sono voci diciamo così riportate dagli organi di stampa, ma è che altri importanti ministeri di questo governo, cioè il ministro degli esteri, nulla sapessero della vicenda e che anche il Presidente del Consiglio abbia, come noto, fatto sapere che avrebbe avviato un'inchiesta interna per capire che cosa è successo. E infine vorrei dire il fatto che noi rimandiamo queste persone che notoriamente e anche documentatamente il marito della signora, sono oppositori, è un oppositore politico di un regime illiberale, non di un regime democratico, e che quindi noi rimandiamo delle persone, contrariamente a tutta la logica di tutti i trattati internazionali che possiamo qui citare, perché ovviamente la logica dell'asilo politico è quella di dare ricovero a chi, rientrando nel proprio paese o comunque nel paese da cui proviene, sarebbe sottoposto a regimi non garantiti della propria libertà personale. Beh, il fatto di rimandarli proprio lì, anche se fosse solo questo il particolare di questa vicenda, fa sorgere il sospetto di una trattazione dell'episodio molto critica. Per questo noi abbiamo chiesto al Ministro dell'Interno di ricostruire tutta la vicenda, di spiegarci tutti i passaggi e di farci capire che cosa sia successo. Saluto intanto Marco Perduca, radicale, ex senatore del Partito Democratico, che ci aiuterà anche a capire esattamente qual è la situazione dei diritti umani in Kazakistan, perché se ne è occupato spesso. Buongiorno Perduca. Buongiorno a voi. Prima però di sentirla, e dato che so che anche l'avvocato Olivo ci deve salutare, devo chiedere una cosa all'avvocato Olivo. La signora Shalabayeva ha mai chiesto effettivamente asilo politico? Perché nella ricostruzione che danno dal Ministero dell'Interno dicono anche che appunto la signora l'asilo politico non l'ha mai richiesto. E qua veniamo allo snodo del quale parlava Emanuele Fiano. Una richiesta formale di asilo non c'è stato il tempo di formularla, questo è il discorso. È stato informalmente avanzato il tema, come dicevamo prima, durante la rapidissima udienza di convalida del trattenimento, e si sarebbe dovuto trattare della questione dell'asilo, della protezione internazionale, nel momento in cui fosse stato possibile parlare con la signora. Questo sarebbe avvenuto alle 15, perché questo è l'orario del CIE, dalle 15 alle 18 di quello stesso giorno venerdì. Come vi dicevo prima, poi è caduta la linea, non so quando esattamente, già alle 13 la signora era a Ciampina, pronta a partire. Poi l'aereo, sapremo per una serie di motivi, anche per alcuni nostri interventi, che è partito soltanto alle 19. Ma la signora era stata già portata via dal CIE prima quindi che potesse esercitare qualunque diritto. Avvocato, aereo noleggiato in Austria, dove tra l'altro hanno aperto un'inchiesta su questa cosa. Esattamente, qua. Esattamente. Ipotizzando il sequestro di persone. Ipotizzando, sì, delle irregolarità che potrebbero dar luogo anche ad un sequestro di persona, ma è stato interessante questo procedimento perché ci ha consentito di avere visione e prendere copia di atti che francamente non c'erano nelle indagini che sono state poi svolte dall'autorità giudiziaria per ora romana. Quindi questo passaporto, avvocato, torno là, era regolare oppure no? Sì. Guardi, secondo voi? A nostro avviso è del tutto regolare. Io ho due dichiarazioni degli ambasciatori che sono in Europa della Repubblica Centroafricana, ma ho anche la dichiarazione del Ministro della Giustizia della Repubblica Centroafricana, e questi atti noi abbiamo prodotto al Tribunale della Libertà di Roma, che ha detto e ha riconosciuto espressamente che questo passaporto era assolutamente regolare. Quindi il punto francamente allo Stato non mi pare molto controverso, ma come diceva giustamente mi pare l'onorevole Fiano, la cosa veramente più straordinaria è la riconsegna della signora e della bambina. Poi le modalità di prelevamento della bambina meriterebbero forse una trasmissione a parte addirittura, perché sono veramente sconvolgenti. E cioè è stata prelevata dalla casa con l'inganno, facendo allontanare dalla stessa casa gli avvocati del nostro studio che erano lì presenti per seguire le fasi della perquisizione, tutta una serie di comportamenti che hanno consentito di portare la bambina, alla quale era stato detto che avrebbe dovuto ricongiungersi con la madre presso la questura dove sarebbe stata portata, invece inopinatamente a deviare ed andare Ciampino, proprio per essere, diciamo così, consegnata anche lei di fatto alle autorità del Kazakistan, che erano in attesa nell'aereo. Ultima domanda che le faccio brevemente, avvocato: ma tutto questo è avvenuto senza interprete, o almeno nell'udienza l'interprete c'era? Nell'udienza di convalida c'era un interprete di lingua russa, è stata l'unica occasione in cui c'è stato un interprete in tutta questa storia. Lei mi ha chiesto dell'asilo, voglio dire che durante la fase di esecuzione dell'espulsione, cioè queste fasi ultra concitate nelle quali la signora è stata portata a Ciampino e poi è stata fatta imbarcare su questo aereo, la signora, da una dichiarazione che ha fatto pervenire con firma autenticata, eccetera, e quindi di sua assoluta provenienza, che è stata in parte pubblicata in alcuni organi di informazione, tra cui il Financial Times, come voi forse sapete, ha dichiarato di aver chiesto espressamente l'asilo a tutte le persone con cui si è imbattuta, cioè con tutti i funzionari di polizia che l'hanno poi consegnata alle autorità kazake. Grazie avvocato e grazie Emanuele Fiano, vi saluto. Grazie a voi, arrivederci. Buona giornata, chiedo a Perduca di aspettare ancora un attimo, abbiamo una pausa e poi veniamo da lei. 9 in punto. E dunque, con Marco Perduca, che spesso se ne è occupato di queste cose, ci aiuta a capire un po' questo Kazakistan. Io in apertura di trasmissione, nell'anteprima, dicevo, con un eufemismo possiamo dire che non è esattamente un paradiso dei diritti umani e civili, no? Però dopo questa vicenda sia un paradiso di rispetto delle regole nazionali e internazionali. Il Kazakistan è una di quelle repubbliche sovietiche che da sempre era stata considerata la meno problematica per tutta una serie di punti di vista, sia per quanto riguarda i problemi interni di convivenza di etnie, sia per quanto riguarda possibili scontri religiosi, ma con questo atteggiamento che la comunità internazionale ha tenuto nei confronti di Nazarbayev, e cioè l'ultimo capo, diciamo, della Repubblica e anche uno degli organi più alti alla Putin dell'ex KGB, che poi è diventato il primo presidente del Kazakistan indipendente e da allora è sempre rimasto al suo posto, Nazarbayev si è approfittato di questo atteggiamento tenue da parte degli internazionali, che nel 2010 gli hanno consentito addirittura di arrivare a presiedere l'OSCE, cioè l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e a fondare, diciamo, il suo pugno di ferro nella società, nell'economia e nella politica, e controllare lui direttamente e alcuni suoi parenti o accoliti un paese che sta diventando tra i più grossi produttori e esportatori di petrolio e gas, e questo è uno dei motivi per cui poi nessuno ha voglia di confrontarlo direttamente, sia perché se non lo si compra a Occidente c'è la Cina dietro l'angolo che in qualche modo gli può comprare tutto, sia perché comunque rimane una zona dove sono stoccate tutte le testate nucleari dell'ex Unione Sovietica, e anzi addirittura il Kazakistan si offre di ospitare le altre testate nucleari, essendo un paese sterminato dove si può, dove c'è bisogno di avviare un lavoro di, diciamo, denuclearizzazione. Perduca, cosa rischiano gli oppositori in Kazakistan? Rischiano i processi sommari e la galera, che spesso viene poi trasformata come ulteriore processo per far sciogliere il partito del quale si fa parte. Io sono stato a novembre sia al Almaty che nella costa del Mar Caspio per una vicenda che pare essere collegata tra l'altro a Bliazov. Due anni fa ci sono state una serie di manifestazioni iniziate tutte da operai che lavoravano in particolare per la Saipem, ma comunque per queste grosse compagnie petrolifere, che li sfruttano pagandogli dei danari irrisori e facendo fare degli orari incredibili, e quindi questi, per affermare i propri diritti sindacali, si erano rivoltati. Nazarbayev non ha fatto, diciamo, aumentare la rivolta di qualche giorno, mandando l'esercito che per tutta risposta ha sparato sulla folla. Ecco, i responsabili di queste manifestazioni, che sono dei sindacalisti ma anche dei leader politici, manifestazioni dove non c'era stata nessun tipo di violenza da parte dei manifestanti, sono stati immediatamente incarcerati, e in un processo di un anno e mezzo che diciamo, ha avuto mai nessun tipo di prova, ma delle gravissime accuse come quella di fomentare i disordini sociali o il sovvertimento dell'ordine costituzionale, ha visto Vladimir Kozlov, uno dei leader di questo partito che si chiama ALGA, cioè Avanti, è incarcerato per 7 anni e mezzo e spedito in una colonia penale in, diciamo, nelle steppe del nord. Questo si rischia. I giorni in cui si è tenuto l'appello di questo processo e la poca stampa indipendente che c'è, quasi tutta ormai dovuta si spostare su internet perché le cartiere sono state messe sotto pressione per non pubblicare i giornali, eccetera, eccetera, che hanno seguito il processo criticando la sentenza politica emessa senza uno straccio di prova, sono stati fatti tutti chiudere. Quindi oggi in Kazakistan non c'è a piede libero un leader dell'opposizione democratica o filo oligarchica, perché poi diciamo che non c'è mai lo stinco di santo che si possa portare come vero oppositore democratico genuinamente liberale, e non c'è né stampa né partiti politici che possano opporsi a Nazarbayev e alla sua famiglia o ai suoi accoliti. Marco Ludovico, giornalista del Sole 24 Ore, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno a te. Allora, su questa vicenda, che domande restano aperte, insomma, dal punto di vista di quello che è avvenuto, dei fatti che siamo riusciti a ricostruire, insomma, vabbè, anche se vogliamo degli effetti che può avere questo sul governo, perché la tensione, anche se sotto traccia, sembra palpabile. La tensione in questi giorni, probabilmente anche nei prossimi giorni, avrà dei picchi in basso e in alto a seconda di come la si vorrà modulare in base agli attori protagonisti. Sicuramente l'appuntamento di giovedì, quando il governo dovrebbe riferire in aula, potrebbe farla aumentare molto. Io in questi giorni ho provato ad approfondire molto la materia e mi sono fatto un'idea abbastanza precisa. È molto probabile che le procedure svolte dalla Polizia di Stato, ci sono anche dei carteggi che probabilmente costituiranno poi la risposta ufficiale del governo in Parlamento, le procedure della Polizia di Stato dovrebbero essere state sostanzialmente corrette, perché in realtà è il solito meccanismo che si realizza quando si rintraccia un clandestino. Il clandestino viene identificato e l'identificazione è possibile se c'è il riscontro dell'ambasciata. In questo caso l'ambasciata non aspettava nient'altro che la segnalazione dell'identificazione per poter rimpatriare. Il rimpatrio a quel punto era la procedura più naturale, quella che si fa normalmente anche per gli altri stranieri. Questo però è il dato puramente tecnico sul quale i legali poi… Quello formale. In realtà una un'idea che mi sono fatto scavando fra i vari interlocutori, perché naturalmente la questione non può essere ridotta al solo Ministero dell'Interno, intanto che questa operazione sia stata fatta un po' troppo di nascosto. Emerge oggi su alcuni giornali l'irritazione del Ministro della Giustizia, ma era già emerso quello del Ministro degli Esteri, e quindi la questione diventa eminentemente politica, anche perché non si capisce per quale motivo c'era tutta questa straordinaria urgenza di fare un rimpatrio di questo genere, a maggior ragione potendo facilmente immaginare quale sarebbe stata la reazione di almeno una parte, ma di una gran parte della comunità internazionale. Quindi c'è un errore di valutazione complessiva di un'iniziativa di questo genere che mi pare clamoroso e che potrebbe diventare assai problematico anche nelle dinamiche interne del governo, ammesso che non ce ne sia già abbastanza. Sentiamo qualche ascoltatore. Fabio da Catania, buongiorno. Buongiorno a voi. Una piccola considerazione personale, ennesimo sdegno per un fatto, sarebbe volete di cronaca, ma se non è nuovo mi sembrano cose già anche sentite in passato. Nello specifico non ho grandi conoscenze di questioni geopolitiche macroscopiche, ma la mia sensazione è che si sia... il nodo fondamentale sia un mero baratto, forniture energetiche probabili, futuribili o già concluse, con una richiesta assolutamente pressante del governo kazako. Mi chiedo come sia possibile che, nonostante dal punto di vista tecnico del Ministero, io ho sentito che è tutto in regola, di questo tipo di operazioni di polizia quasi militare non sia informato preventivamente il Ministro degli Esteri, Rabbonino, che stimo, e quant'altro, che nessuno sappia in realtà quello che sta succedendo e che tutto venga alla luce solo a fatto compiuto. È l'ennesima, secondo me, pessima figuraccia a livello internazionale. Poi siamo noi i primi a indignarci quando il Brasile non ci restituisce, adesso non ricordo il nome, del Cesare Battisti. Cesare Battisti. Quando la Francia non ci tornava Toni Negri e sì, quant'altro. Sì, sì. Io capisco il garantismo sancito da accordi internazionali. Mi sembra, a questo punto di vista, così come il rapimento di alcuni anni fa di Omar Abu Omar, ricordo, siano dei fatti che mettono assolutamente l'Italia alla berlina dell'opinione pubblica. Grazie. Simone da Roma, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Senta, volevo dire sostanzialmente che reputo che questo episodio rappresenti l'ennesimo indizio sul fatto che l'ENI svolge un ruolo molto importante nella politica italiana e nella politica estera in particolare. L'ENI è impegnato nel Kashagan, nell'estrazione di petrolio, se non sbaglio prima era capofila di tutte le varie aziende petrolifere che esploravano ed estraevano per il petrolio nel Kashagan, poi è stata fatta fuori, credo per motivi sempre per motivi politici. Mi chiedo a questo punto quale possa essere la curiosità che viene, qual è il legame a questo punto fra il Ministero degli Interni e l'ENI. Esiste un legame privilegiato in questo momento? Per quale motivo sono stati bypassati altri ministeri in questa situazione, in questa operazione. Grazie Simone, io tendo a diffidare delle teorie eccessivamente complottistiche, però magari insomma qualche risposta su questo tema si può dare, ma dopo la viabilità. 9 in punto. Naturalmente, per rispondere ai due ascoltatori che ci hanno chiamato, ci sono un paio di elementi da dire. Che innanzitutto le interpretazioni su questa cosa, della quale non conosciamo ancora i contorni, quindi sia ben chiaro questo punto, non sono per nulla chiare, perché per esempio oggi il Fatto Quotidiano, era anche prospettabile, dice in sostanza, stringi, dice Berlusconi che ha voluto fare un favore a Nazarbayev tramite Alfano, questo dice il Fatto Quotidiano. Sul fronte della questione delle forniture petrolifere di Kashagan, non scordiamoci però una cosa importante, che il governo kazako, senza le compagnie straniere, non è in grado di fare nulla a Kashagan, perché, come illustra benissimo un pezzo di oggi proprio sul Financial Times è dedicato a questo, ci vogliono quelle competenze tecniche e quelle capacità, comprese quelle dell'ENI, per poter estrarre petrolio da uno dei posti più difficili del pianeta da questo punto di vista. Per Duca vorrei ritornare ad una cosa. Quanto ricorda, tra l'altro, lo ricordava anche l'ascoltatore poco fa, quanto ricorda la vicenda Abu Omar questa, per certi aspetti? Beh, ora mi pare che la gravità sia per certi versi ulteriore, perché la pericolosità dei sottratti è totalmente inesistente, quindi direi che se è vero quel che si legge, e cioè che questo raid era stato fatto perché si cercava il marito della signora Ablyazov, sul quale in effetti pendono dei mandati d'arresto internazionale, ma che non trovatolo si porta via la consorte per cercare in qualche modo, e qui però interpreto io perché non si è capito come è andato a finire, far pressione perché questo poi si costituisca o parli o collabori con la giustizia, credo che la gravità sia molto superiore, anche perché se, come ricordava l'avvocato, implicata la figlia, tra l'altro minorenne, tra l'altro io ho letto da qualche parte però che la signora aveva un passaporto, o anche un passaporto kazako con un visto Schengen rilasciato dalla Lettonia e che quindi addirittura fosse regolarmente su suolo dell'Unione Europea. Lei dice doppiamente regolare. Esatto. Ammesso e non concesso che comunque si possa facilmente controllare la regolarità di un passaporto della Repubblica Centroafricana, dove oggi c'è un governo golpista di unità nazionale. Io per l'appunto 2 settimane prima di andare in Kazakistan ero nella Repubblica Centroafricana e posso garantire che non è semplice trovare anche il numero di telefono giusto per capire con chi parlare, quindi questo diciamo lo mettiamo nell'inventario delle cose da chiarire, ma c'è quest'altro passaporto che esisteva e che aveva tutto quanto, quindi più che come sentivo poco fa, rispettato tutte le procedure. Qui non c'era nessuna procedura da rispettare, paradossalmente, perché era tutto regolare. Allora io penso che se adesso c'è un'indagine interna al Viminale, occorrerà prendere dei provvedimenti seri, una volta di più a norma di legge, perché chi ha commesso queste violazioni paghi, ci sia una sanzione disciplinare e se appunto tutto deve essere confermato, il pubblico amministratore non sia più pubblico amministratore. Poi certo c'è la responsabilità politica del capo del Ministero, ora io non voglio fare l'avvocato difensore del Ministro degli Interni che solo da un mese gestiva… Abbiamo perso Perduca, oggi è una giornata problematica con i telefoni. Ti chiedo una cosa, Marco Ludovico, secondo te è ipotizzabile che una cosa di questo genere sia avvenuta all'insaputa del Ministro dell'Interno? No, io escludo che sia avvenuta alla sua insaputa. Bisogna anche dire che in quei giorni il capo della polizia stava per insediarsi, c'è stato probabilmente un qualche pezzo della linea gerarchica che poteva sfuggire, ma escludo che non lo sapesse il Ministro dell'Interno. Io vorrei provare però a rendere il discorso un po' più generale da un altro punto di vista. Sono totalmente d'accordo con Perduca sul fatto che la gravità estrema della vicenda sta nel fatto di rimpatriare come se fossero due pericolosi criminali una madre e una figlia minorenne, che per la cronaca è quello che mi risulta, non sono accusati di nulla, e questo già è un dato. Ma poi vorrei fare una considerazione di natura generale, perché oggi i grandi giornali, che finora non hanno affrontato se non in modo abbastanza ristretto il tema che è stato tirato fuori per primo al Messaggero, danno paginate sulla visita del Papa a Lampedusa. Cosa c'entra con questo caso? Si parla di morti, si parla di persone che non sono riuscite ad approdare. Non dobbiamo dimenticare che sono stati in discussione fin dai tempi del governo Berlusconi i provvedimenti di respingimento e anche quelli di rimpatrio, a volte sono stati messi in discussione, perché entrambe le procedure mettono seriamente a rischio i diritti umanitari. Non c'è discussione su questo, possiamo essere sicuri che i respingimenti, quando sono stati fatti nei confronti dello Stato libico, portavano immigrati di nuovo da stati dove era stata negata la democrazia. E questo caso di cui discutiamo oggi è criticabile, perché si rimpatria un immigrato clandestino che è in Italia, in uno Stato dove non sono garantiti i diritti umani. Allora forse il tema generale, politico, al di là di quello di governo grave interno, è: possiamo garantire che le procedure per espellere gli immigrati clandestini, come sarebbe in fondo giusto che sia, garantiscano però che non ci prestiamo a essere complici di Stati dove non sono garantiti i diritti umani? Secondo me non è un tema marginale nella discussione. Sentiamo Giuseppe da Alessandria, buongiorno. Buongiorno, io suffragare proprio quest'ultima considerazione. Non sono pratico di questione di espulsione, però la mia domanda è questa. Io non credo che si riesca a prenotare un jet privato nell'arco di qualche ora, visto che da quanto si è detto alle 11 c'è stato il processo e alle 13 era già su un aereo. Quindi credo, poi magari mi sbaglio, anzi sicuramente mi sbaglierò, che fosse già stato tutto quanto architettato e organizzato. Perché com'è possibile che in 2 ore ci sia un aereo pronto, piani di volo e tutto quanto? E questo è abbastanza inquietante, se pensiamo che, insomma, teoricamente dovrebbe essere stato un processo, il beneficio del dubbio e tutto quanto. Sì, se c'era il dubbio, come... Guardi, non lo so, in realtà guardi che l'aereo sarebbe stato affittato dal consolato kazako, quindi insomma, magari insomma, si sono nutriti di aspettative. Non so, per Duca, brevemente, che dice lei? No, per chi ha miliardi a disposizione un aereo si noleggia nel giro di minuti e arriva 1 ora e mezza dopo, non credo che sia questo il problema, anche perché tra l'arresto e la deportazione sono passate 48-72 ore, quindi i tempi tecnici c'erano. Io però ripeto, il problema qui non sono i diritti umani in Kazakistan, sono i diritti umani in Italia, come diceva giustamente il giornalista del Sole 24 Ore. Non si rispettano le procedure e questa è una violazione dei nostri obblighi internazionali. È ricaduto di nuovo per Duca, tanto dobbiamo chiudere la trasmissione, ma mi sembrava che insomma il pensiero lo avesse concluso efficacemente. Un ringraziamento a Marco Ludovico del Sole 24 Ore, Marco per Duca se ci sente ancora, naturalmente radicale, ex senatore PD, Alessandro Marco Tulli redazione, Peter Bescape in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci stiamo addosso a questa vicenda, ci stiamo addosso, ci sentiamo domani. Ricordati! Mancano 83 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24. La passione si sente. 9 in punto.